Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. I quattro viaggiatori attraversarono il resto della foresta senza problemi e una volta usciti dalla sua atmosfera deprimente si trovarono davanti un monte ripido ricoperto interamente da massi. «Sarà difficile arrampicarsi», disse lo spaventapasseri, «ma in ogni caso dobbiamo oltrepassare il monte». Così iniziò ad arrampicarsi e gli altri lo seguirono. Aveva quasi raggiunto il primo masso quando udirono una voce rozza gridare: «State lontani!» «Chi sei?» domandò lo spaventapasseri. Sopra il masso si mostrò una testa e la stessa voce disse: «Questo monte ci appartiene e non permettiamo a nessuno di passare di qui!» «Ma noi dobbiamo passare!» disse lo spaventapasseri. «Stiamo andando al paese dei quadrumpoli!» «Infatti non andrete», rispose la voce, e a questo punto, da dietro la roccia, uscì l'uomo più strano che i viaggiatori avessero mai visto. Era molto basso e robusto, e aveva un testone piatto sorretto da un collo spesso e rugoso. Non aveva braccia, e quando lo spaventapasseri se ne accorse, pensò che una simile creatura non potesse impedirgli di scalare il monte. Così disse: «Mi dispiace non fare come desideri, ma noi dobbiamo attraversare il monte, che ti piaccia o no», e avanzò impavido. La testa dell'uomo, alla velocità della luce, si lanciò in avanti, e il collo si allungò finché la parte superiore della testa, che era piatta, non colpì lo spaventapasseri e lo fece rotolare, girandosi e rigirandosi sino ai piedi del monte. Con la velocità con cui si era allontanata, la testa ritornò al corpo e l'uomo rise con un ghigno crudele dicendo: «Non è così semplice come pensavi!» Un coro di rumorose risate si levò dagli altri massi e Dorothy vide centinaia di teste martellanti senza braccia sul pendio, una per ogni masso. Il leone si arrabbiò molto per le risate seguite all'infortunio dello spaventapasseri, ed emettendo un ruggito tanto forte da provocare un eco simile a quella di un tuono, corse su per il monte. Di nuovo la testa si allungò all'infuori con la rapidità di prima, e il gran leone ruzzolò giù dal monte come se fosse stato colpito da una cannonata. Dorothy corse giù per aiutare lo spaventapasseri ad alzarsi, ed il leone le si avvicinò alquanto dolente e pieno di lividi e sbucciature, e disse: «È inutile combattere della gente con la testa allungabile, nessuno può batterli». «Cosa facciamo allora?» domandò lei. «Chiamiamo le scimmie alate», suggerì l'uomo di latta. «Puoi farlo ancora una volta». «Va bene», rispose lei, e mettendosi il cappello dorato mormorò le parole magiche. Le scimmie arrivarono ancora più rapidamente del solito e in pochi secondi l'intero gruppo le fu davanti. «Cosa ci comandi?» domandò il re delle scimmie facendo un inchino. «Portateci oltre il monte nel paese dei quadrumpoli», rispose la ragazzina. «Sarà fatto», disse il re. E le scimmie alate presero subito i quattro viaggiatori e volarono via con loro. Mentre le oltrepassavano, le teste martellanti urlarono frustrate e si allungarono il più possibile, ma senza raggiungere le scimmie alate, che portarono Dorothy e i suoi amici, sani e salvi, oltre il monte e li appoggiarono a terra nel bellissimo paese dei quadrumpoli. «Ci hai chiamato per l'ultima volta», disse il capo a Dorothy. «Quindi addio e buona fortuna». «Addio e grazie mille», rispose Dorothy. E le scimmie si levarono in volo e in un attimo scomparvero dalla vista. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Il paese dei quadrumpoli sembrava prosperoso e felice. Campi su campi di grano maturo, uniti da strade ben fatte, graziosi ruscelletti gorgoglianti, corredati di robusti ponti per attraversarli. Steccati, case e ponti erano tutti dipinti di rosso, proprio come erano stati dipinti di giallo nel paese delle socchi e di blu nel paese degli ignami. I quadrumpoli stessi, che erano bassi e grassi e sembravano paffutelli e di buon carattere, andavano vestiti di rosso, risaltando tra l'erba verde e il grano giallo. Le scimmie li avevano lasciati vicino a una fattoria e i quattro viaggiatori andarono a bussare alla porta. Gli aprì la moglie del contadino e quando Dorothy le chiese qualcosa da mangiare, la donna preparò un pasto abbondante per tutti, con 3 tipi di torte e 4 tipi di biscotti e per Toto una ciotola di latte. «È molto lontano il castello di Glinda?» domandò la ragazzina. «Non molto», rispose la moglie del contadino. «Prendi la strada verso sud e ci arriverai quasi subito». Ringraziata la buona donna, ripartirono e camminarono lungo i campi e attraversarono i graziosi ponti finché non si trovarono davanti a un castello davvero molto bello. Alla porta c'erano 3 giovani fanciulle che indossavano delle uniformi rosse con decorazioni dorate e quando Dorothy si avvicinò una di loro le disse: «Perché sei venuta nella terra del sud?» «Per visitare la strega buona che ci vive», rispose. «Mi portereste da lei?» «Lasciatemi i vostri nomi e chiederò a Glinda se è disposta a ricevervi». Dissero chi erano e la ragazza soldato entrò nel castello. Dopo poco ritornò per dire che Dorothy e gli altri potevano entrare senza indugio. Prima di presentarsi da Glinda, però, vennero portati in una stanza del castello, dove Dorothy si lavò la faccia, il leone si scrollò la polvere dalla pelliccia, lo spaventapasseri si mise nella sua forma migliore e l'uomo di latta si lucidò la latta e si cosparse l'olio sulle giunture. Una volta resi presentabili, la ragazza soldato li condusse in un salone dove la strega Glinda sedeva su un trono di rubini. Ai loro occhi era bella e giovane. Aveva i capelli rosso intenso e i ricci le scendevano delicatamente sulle spalle. Il suo vestito era bianco candido, ma gli occhi erano blu e si riempirono di gentilezza guardando la ragazzina. «Cosa posso fare per te, bambina mia?» domandò. Dorothy le raccontò tutta la sua storia. L'arrivo nella terra di Oz a cavallo di un ciclone, come aveva trovato i suoi compagni e le meravigliose avventure che avevano vissuto insieme. «Il mio desiderio più grande», aggiunse, «è tornare in Kansas, perché la zia Em penserà sicuramente che mi sia successo qualcosa di terribile e vorrà vestirsi a lutto. E se il raccolto non è stato migliore di quest'anno, sono certa che lo zio Henry non se lo potrà permettere». Glinda si chinò in avanti e baciò il visino proteso verso di lei di quella buona ragazzina. «Dio ti benedica», disse. «So di poterti indicare un modo per tornare in Kansas». Poi aggiunse: «Ma se lo farò, dovrai darmi il cappello dorato». «Volentieri!» esclamò Dorothy. «A me non serve più e quando sarà tuo potrai per 3 volte comandare le scimmie alate». «Credo di aver bisogno del loro aiuto proprio per 3 volte», rispose Glinda sorridendo. Dorothy le diede il cappello dorato e la strega disse allo spaventapasseri: «Cosa farai quando Dorothy non sarà più tra noi?» «Tornerò nella città smeralda», rispose. «Perché Oz mi ha nominato re e la gente mi vuole bene. L'unica cosa che mi preoccupa è come attraversare il monte delle teste martellanti». «Tramite il cappello dorato comanderò alle scimmie alate di portarti alle porte della città smeralda», disse Glinda, «perché sarebbe un peccato privare il popolo di un re così meraviglioso». «Sono davvero meraviglioso?» domandò lo spaventapasseri. «Sei particolare», rispose Glinda. Rivolgendosi all'uomo di latta, domandò: «Cosa farai quando Dorothy non sarà più tra noi?» Lui si appoggiò sull'ascia e rifletté un attimo, poi disse: «I Lessocchi sono stati molto gentili con me e desideravano che andassi a regnare su di loro dopo la morte della perfida strega. Mi stanno simpatici. E se riuscissi a tornare nella terra dell'Ovest, mi piacerebbe molto regnare là per sempre». «Con il mio secondo ordine», disse Glinda, «dirò alle scimmie alate di portarti sano e salvo nel paese delle socchi. Il tuo cervello non sarà grande come quello dello spaventapasseri, ma in realtà sei più brillante di lui, se ti lucidi bene, e sono certa che sarai un sovrano giusto e saggio». Poi la strega si rivolse al gran leone arruffato e domandò: «Una volta che Dorothy sarà tornata a casa, cosa farai?» «Al di là del monte delle teste martellanti», rispose lui, «c'è un'antica foresta regale e gli animali che ci vivono mi hanno nominato loro re. Se solo potessi tornare in quella foresta, trascorrerei tranquillamente lì il resto della mia vita». «Con il mio terzo ordine», disse Glinda, «ti farò portare nella foresta. Poi, esauriti i poteri del cappello dorato, lo darò al re delle scimmie, per far sì che lui e i suoi siano liberi per l'eternità». Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. The a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Lo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone ringraziarono sinceri e commossi la strega buona per la sua gentilezza. E Dorothy esclamò: «Sei gentile quanto sei bella, come minimo, ma non mi hai ancora detto come farò a tornare in Kansas. Le tue scarpe d'argento ti trasporteranno al di là del deserto», rispose Glinda. «Forse, se fossi stata a conoscenza del loro potere, saresti potuta tornare dalla Ziem il giorno stesso in cui sei arrivata in questa terra». «Ma io non avrei avuto il mio meraviglioso cervello», urlò lo spaventapasseri. «Avrei potuto passare un'intera vita nel campo di grano del contadino». «E io non avrei il mio adorabile cuore», disse l'uomo di latta. «Sarei potuto rimanere ad arrugginirmi nella foresta sino alla fine del mondo». «E io sarei rimasto un fifone per sempre», dichiarò il leone, «e nessun animale della foresta mi avrebbe mai parlato». «Tutto questo è vero», disse Dorothy, «e sono contenta di essere stata utile a questi buoni amici. Ma adesso hanno tutti ottenuto ciò che più di ogni altra cosa al mondo desideravano. Ognuno è felice di avere un proprio paese su cui regnare, quindi credo di voler tornare in Kansas». «Le scarpe d'argento», disse la strega buona, «hanno poteri meravigliosi, e la cosa più curiosa è che ti permettono di andare ovunque in soli 3 passi, e ogni passo si fa in un batter d'occhio. Devi semplicemente battere assieme i tacchi per 3 volte e ordinare alle scarpe di portarti dove vuoi andare». «Sia così semplice», disse la ragazzina allegramente, «chiederò loro di portarmi in Kansas immediatamente». Gettò le braccia al collo del leone e lo baciò, accarezzandogli con tenerezza il testone. Poi baciò l'uomo di latta, che stava piangendo in maniera assai pericolosa per le sue giunture. Abbracciò il corpo morbido e impagliato dello spaventapasseri, invece di baciargli il volto dipinto, e si accorse che stava piangendo anche lei per questa triste separazione dai suoi carissimi compagni. Glinda la buona scese dal trono di rubino per dare un bacio d'addio alla ragazzina, e Dorothy la ringraziò per tutta la gentilezza che aveva dimostrato nei confronti suoi e dei suoi amici. Quindi Dorothy prese solennemente in braccio Toto e, avendo detto addio un'ultima volta, batté assieme i tacchi delle scarpe per 3 volte, dicendo: «Portatemi a casa dalla zia Em». About a lucky man who made the grade, and though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph the car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. The crowd of people turned away. But I just had to look. Having read si ritrovò subito a piroettare in aria a una tale velocità che riusciva a sentire e a vedere soltanto il vento che le girava attorno. Le scarpe d'argento fecero soltanto 3 passi e Dorothy si arrestò così improvvisamente che rotolò sull'erba un paio di volte prima di rendersi conto di dove si trovasse. Infine si alzò e si guardò intorno. «Santo cielo!» esclamò. Stava lì, nell'ampia prateria del Kansas, e davanti a lei c'era la nuova fattoria costruita dallo zio Henry, dopo che il ciclone aveva portato via quella vecchia. Lo zio Henry stava mungendo le mucche in cortile, e Toto si divincolò dalle braccia di Dorothy e iniziò a correre verso la stalla, abbaiando gioioso. Dorothy si alzò e si rese conto di avere ai piedi soltanto un paio di calzini. Infatti le scarpe d'argento le erano cadute durante il volo e le aveva perse per sempre nel deserto. La zia Em era appena uscita di casa per annaffiare i cavoli quando alzò gli occhi e vide Dorothy che correva verso di lei. «Mia cara bambina!» gridò, prendendola in braccio e riempiendola di baci. «Ma da dove sei spuntata?» «Dalla terra di Oz!» disse Dorothy seria. «Ed ecco Toto! E, zia Em, sono così felice di essere di nuovo a casa!» Alba Rohrwacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it.